Valeria, sono stata a Skansen, a Vasa, mi ha fatto venire una voglia di tornare veramente. Tra l'altro, insomma, come diceva Daniele, è davvero una città per i bambini, quindi sei partita col pancione, ma dovresti tornare con Alessandro. Con il piccolo. Senti, però è una città molto cara. È una città cara, bisogna stare un po' attenti a Stoccolma, però devo dirti la verità che si riesce anche a trovare il modo di dormire e mangiare a dei prezzi comunque accessibili. Senti, ma è vero che la colazione è sacra e c'è una giornata nazionale dedicata ad una ciambella, la ciambella, le brioche, quelle rotonde alla cannella del mattino? Questo l'ho scoperto io, veramente me lo stai dicendo tu. Vedi che l'ho scoperto io. Ti devo dire che le colazioni sono fantastiche, come del resto in quasi tutti i paesi del nord Europa. Dall'estero all'Italia, Valeria, io ti porto in un luogo incantato in Toscana. Chilometro zero. Questo posto si chiama Bagno Vignoni, è a 50 km da Siena, come dicevamo nei titoli. È un borgo medievale della Val d'Orcia, dal 1994 itinerario culturale europeo. È noto per le sue terme, sia a pagamento che libere, ed è molto apprezzato per chi desidera visitare una Toscana, insomma, meno battuta delle altre. Qual è la particolarità? È che la piazza centrale di Bagno Vignoni è costituita da una grande vasca termale, intorno alla quale poi si è sviluppato il paese. La vasca in piazza rientrerebbe, pensa, nelle zone termali di libero accesso, però c'è il divieto di balneazione e quindi rimane solo piena delle sue acque ma anche dei suoi vapori. Quindi questa piazza, Valeria, è veramente un incanto. Poi la sera, con i vapori che vengono su dalla vasca termale, diventa un posto incantato. Ci credo, non ne dubito, e prossimamente andrò, anche perché io sono stata a Siena, ho visitato un po' tutti i dintorni, però questa mi manca. E qui tornerò accompagnata come al solito dalla mia famiglia. Ma secondo me ci siamo un po' dimenticati in questa terza puntata di Chi viaggia con gli animali. Ci siamo dimenticati, sì. Eppure noi siamo affezionate, io ne ho due di gatti. E siamo attente. E allora abbiamo ancora tempo per un consiglio speciale dedicato proprio a chi porta gli animali in vacanza. E io ne ho parlato con un ospite. Sentiamo quali consigli ci ha fornito. Flavio Morchi, medico veterinario e direttore della comunicazione scientifica di Royal Canin Italia. Parliamo di viaggi con animali perché da una ricerca di Squadrati emerge che gli italiani portano in vacanza il proprio cane o il proprio gatto perché lo sentono come una persona di famiglia. Però ci sono delle regole da rispettare, Morchi, vero? Assolutamente sì. Infatti questa ricerca traccia un profilo molto preciso del proprietario, ma traccia anche e indica anche che solo il 30% dei proprietari, prima di partire in vacanza con il proprio amico a quattro zampe, si rivolgono a un medico veterinario per fare un piccolo check-up della situazione. È necessario dire al medico veterinario dove si vuole andare in vacanza, e questo fa la differenza, perché se fosse mare o montagna o anche campagna a seconda delle preferenze, ma uno stato estero o il nostro stato italiano. Questo comporta che cosa? Comporta che se si vuole andare all'estero è necessario ovviamente seguire delle procedure sanitarie che ovviamente vengono applicate dallo stato di destinazione, e qui bisogna che il veterinario poi si informi presso la ASL per sapere se è necessario un passaporto, se è necessario osservare una quarantena, perché lo stato non riconosce i nostri documenti sanitari. Quindi questo è il primo punto. In secondo luogo, sempre quando si va in paesi più o meno lontani, basterebbe già la Slovenia o la Croazia, quindi non tanto lontani, la vaccinazione per la rabbia è importantissima. La vaccinazione per la rabbia però comporta la necessità di anticipare questa procedura almeno un mese prima della partenza, perché sennò non avrebbe senso. Una vaccinazione ha valore se ovviamente il titolo anticorpale, perdoni se parlo in maniera un po' tecnica, ma deve essere recepita dall'animale, e quindi non si può vaccinare il giorno prima e partire il giorno dopo, non ha senso insomma. Valeria, torneremo a dare consigli per chi sceglie di viaggiare con animali anche nelle prossime puntate. Per il momento ci fermiamo. Globetrotter 24. Rieccoci qui, Valeria, come ti dicevo, restiamo in Italia e ti porto in un luogo a me caro, un territorio molto vasto, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. Pensa che il territorio si estende su una superficie di 181.000 ettari, anche di più, mi ha raccontato il direttore del parco, Angelo Di Vita. Mila ettari a terra come parco nazionale, però deve tener conto che recentemente sono state istituite due aree marine protette, Santa Maria di Castellabate, che è l'area protetta più grande della Campania, la terza in Italia, e Costa degli Infreschi della Masseta, una a nord e un'altra diciamo a sud della costa del parco, che sono altri 9.000 ettari, quindi superiamo i 190.000. E quindi siamo l'area protetta più grande d'Italia. Ecco, un'area anche molto diversa, è un territorio naturale che comprende 80 comuni, 8 comunità montane, dicevamo Cilento, Vallo di Diano, Alburni, quindi c'è una vasta scelta per il turista. È vastissima, anzi forse è imbarazzante, no? Venire nel nostro territorio, perché è complicato poter scegliere dei percorsi e degli itinerari che siano ben definiti, perché si può fare di tutto, tant'è vero che questo territorio diciamo è riserva di biosfera, quindi fa parte del programma MAB dell'UNESCO come riserva di biosfera, quindi è una biodiversità riconosciuta a livello internazionale, però nello stesso tempo è patrimonio culturale con i siti archeologici di Pestum, Velia e la Certosa di Padula. Mare e bandiera blu in più di un comune, lo abbiamo detto, ma anche tanti itinerari naturalistici. Ci sono delle guide specializzate poi che accompagnano i turisti? Ci sono delle guide che furono formate dal parco alcuni anni fa che sono a disposizione, e comunque ci sono poi coloro i quali gestiscono il territorio che possono fare da guida. Le faccio, per esempio, mi viene in mente un percorso fantastico che potrebbe essere quello fatto nella Valle delle Orchidee, dove c'è il professor Di Novella che, oltre ad essere un grandissimo esperto, è una guida del territorio molto importante. Siamo vicini comunque alla Certosa di Padula, alla città di Teggiano, che è uno dei centri storici più belli di tutto quanto il territorio. Questo solo per parlare di un piccolo angolo del territorio del Vallo di Diano. Tanto vasto. Quindi la vacanza del Cilento è un po' per tutti, possiamo dire, nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Quindi è una vacanza anche per famiglie. Ho letto che ci sono anche campi scuola, quindi anche per i bambini. Sì, guardi, abbiamo concluso da pochissimo la nona edizione della scuola nel parco. La scuola nel parco è un'attività che facciamo con tutte le scuole del territorio, anche con scuole che hanno dei programmi PON che investono nell'ambiente e nella biodiversità, con alla fine una manifestazione di premialità per quelle classi che hanno prodotti migliori elaborati dal punto di vista grafico, dal punto di vista letterario. Quindi c'è tantissimo, e questi bimbi vengono accompagnati dal nostro personale del parco insieme alle guide nel territorio a vivere, oltre che delle lezioni in aula, a vivere proprio tutto quanto il territorio e la sua grandissima biodiversità, enorme biodiversità. Un parco per tutti e anche per i giovani, perché per esempio sulla costa ci sono tante destinazioni per i giovani che vogliono divertirsi. Certamente, penso che sono le località più famose, da Palinuro, che era famoso dagli anni 60, ancora prima del parco, per il Club Mediterraneo, è uno dei luoghi diciamo, turistici meglio più rinomati, insieme a Camerota, con delle spiagge che stanno avendo un incredibile successo a livello internazionale, fino ad arrivare all'altra parte della costa, ad Acciaroli, che sta acquisendo, quindi una frazione del comune di Polli, che insieme a Pioppi, dove è nata la dieta mediterranea, sta diventando una meta turistica importantissima. E diciamo c'è tantissimo da visitare, andando poi ancora più a nord, verso Santa Maria di Castellabate, con Punta di Cosa, con l'isolotto di Punta di Cosa, col suo fascino anche legato alle leggende della sirena Leucosia, e così come Palinuro è legato ovviamente anche alla storia e alle leggende della mitologia greca. Posti meravigliosi da visitare, posti che tra l'altro io conosco e amo da tantissimo tempo. È una vacanza questa in tutta l'area, possiamo dire, anche economicamente conveniente, possiamo dirlo? Cioè rispetto ai posti di villeggiatura molto cari, possiamo dire che si può fare anche una vacanza a buon mercato? Si può fare una vacanza, sì, utilizzando tutta una serie di strutture agrituristiche disseminate sul territorio, anche tutta una serie di strutture che sono comunque collegate al parco, che nella programmazione del Polo 2000-2006 ha finanziato con il supporto della Commissione Europea, quindi della Regione Campania, dei fondi strutturali, una serie di piccole attività di ricettività turistica, alcune delle quali sono veramente carine e molto significative e sono disseminate su tutto il territorio. Il complicato è trovarle, cercarle, quindi è una specie di caccia al tesoro che si può fare. Non ci sono balturre, qui è un po' fai da te, quindi è un buon turismo che può andare anche all'avventura per cercare dei posti molto molto suggestivi. Le faccio l'esempio per esempio di Morigerati, no? Un altro posto incantevole dove c'è un'oasi WWF con la risorgiva del Bussento, quindi dal punto di vista naturalistico molto, molto interessante, con un paese albergo dove si può essere ospitati presso delle strutture a livello familiare, quindi c'è anche in maniera economica, si vive proprio la realtà del paese, ma non solo Morigerati ma anche altre località fanno questo tipo di attività. Direttore, io per questa intervista l'ho cercata, diciamo, l'ho rincorsa, perché immagino che fare il direttore di un parco così vasto... Questa è una cosa veramente incredibile, cioè purtroppo si fa di tutto e di più, forse questa è una delle carenze più grosse, cioè poter far fronte a tutte le esigenze, perché il parco nasce con delle finalità, no? Se vede le finali della 394, la salvaguardia della biodiversità, gliele sedietizzo piuttosto che il recupero delle antiche tradizioni, poi ci tocca di fare di tutto e di più, dalle autorizzazioni, da tutte le autorizzazioni, qualsiasi tipo di intervento che si legge nel parco deve essere sottoposto alla nostra autorizzazione, quindi c'è un'attività amministrativa molto importante che sfugge nel comune senso della misura del lavoro che uno fa. Piuttosto che alla ricerca dei fondi della Commissione Europea con i LIFE che facciamo, quindi c'è un'attività molto diversificata, molto variata, con un personale che è numericamente anche ridotto e quindi si fatica ad andare avanti, quindi questa è un po' la contraddizione di un territorio così vasto che avrebbe bisogno magari di una maggiore potenzialità dal punto di vista della struttura proprio operativa. Direttore, lei ci ha segnalato un po' di posti, mi rendo conto appunto che anche per la vastità lei non si può sbilanciare, ma c'è un posto che lei è più caro di qualcun altro e perché? Le potrei dire il mio paese natale, Mole della Civitella, con una collina dove ci stanno dei reperti archeologici che sono un posto di Velia ed Elea, la stessa Velia ed Elea che è pochissimo conosciuta, io ogni qualvolta parlo, cerco di pubblicizzare. Perché ai più è poco nota il sito archeologico di Velia, è molto più famoso Pestum, lei c'è stata a Velia visto che conosce il territorio. Io ci sono stata a Velia ed è bellissimo. È la prima volta che mi capita un'intervistatrice che è stata a Velia, raramente sì. mi succede, è uno dei posti più suggestivi da un punto di vista della storia dell'archeologia che possa esistere, una città dell'antica, della Magna Grecia fondata dai Focei nel VI secolo avanti Cristo, in cui uno può vedere proprio lo sviluppo di una florente città della Magna Grecia. Visto che ho avuto anche i complimenti da De Vita, ti dico che il sito archeologico di Velia è molto interessante e molto vasto, con resti di mura, affreschi e mosaici notevoli. La vista dalle torri è fantastica. Il sito, in verità, potrebbe essere tenuto anche meglio. Non è una novità, purtroppo, per la zona. Per quella zona hai perfettamente ragione, merita una visita. Il costo del biglietto è basso, costa 3,50 euro se si visitano solo gli scavi di Velia, 8 euro se invece vuoi visitare anche Pestum. E a questo punto bisogna dire che ne vale la pena, quindi 8 euro anche per visitare Pestum mi sembra più che accettabile come prezzo. Sicuramente lo consigliamo, ma tu dove mi porti? Aspetta e vedrai. Chilometro zero. Questa settimana, Anna, forse siamo ancora in tempo, diciamo, ti racconto un posto famoso per le ciliegie, che tra l'altro sono il mio frutto preferito, quindi io aspetto con ansia che arrivi maggio, da un po' di anni a questa parte la fine di maggio, per le ciliegie. Ti porto a Vignola, tra Modena e Bologna viene coltivata una qualità antica di ciliegia, la Moretta, è una varietà molto delicata, ma per gli amanti delle ciliegie è una vera delizia. E già che siete a Vignola, scuola a cercare le ciliegie dai contadini, perché questo lo potete fare, e non solo, potete anche acquistare marmellate, poi fanno delle torte fantastiche. Io sono un po' fissata con il mangiare, però devo dirti che qui però fanno vi assicuro delle cose... che non è per niente visibile questo suo amore per i dolci, però c'è e bisogna controllarlo in certi casi, e qui in zona devo dire che fanno delle torte meravigliose con le ciliegie. Già che siete da queste parti potete andare a visitare la Rocca, e in zona potrete anche andare a dare un'occhiata a Palazzo Albergati a Zola Predosa. Ne vale la pena anche perché in questo periodo, proprio adesso a Bologna, a Palazzo Fava è in corso la mostra Da Cimabue a Morandi, e nel biglietto che farete o fate, insomma, che sceglierete di fare per andare a vedere questa mostra, è compreso anche lo spostamento in navetta fino a Palazzo Albergati per andare a vedere gli affreschi del palazzo. Nel biglietto è prevista, è inclusa anche la visita guidata, quindi è un biglietto che, se non ricordo male, a prezzo intero è 12 euro, però vale davvero la pena perché poi c'è la navetta che da Bologna vi porta fino a Zola Predosa, e poi anche la visita guidata per gli affreschi del palazzo. Valeria, siamo davvero alle battute finali, ai saluti anche per questa terza puntata. Tu sei quella che dà i consigli, quelli veri, quelli concreti. Come ci possono scrivere? Perché? Come ci possono scrivere? Ah, certo, perché noi ce la dimentichiamo sempre. La mail, ma questa volta sei stata tu a ricordarmelo. Io l'avevo già dimenticata, l'avevo bypassata, perché evidentemente anche la mia testa è già in vacanza. E allora, per scriverci consigli, per darci appunto news su posti da vedere o cose da vedere, ma anche per bacchettarci se qualche cosa non vi è piaciuta, globetrotter24@radio24.it, potete contattarci, anzi fatelo, mi raccomando, spunti, idee, consigli, tutto quello che volete scriverci. E poi il ringraziamento speciale, come ogni settimana, ad Andrea Roccabella in regia. Alla prossima puntata. Alla prossima.